E non ha certo tradito le aspettative dei suoi fan, che sono tanti, perché nonostante sia salita sul palco di Sanremo per la prima volta nella categoria delle nuove proposte, ha alle spalle una carriera di alto profilo, supportata da una voce e da una personalità che hanno conquistato critica e pubblico. La nostra amica di questa settimana, che inaugura un nuovo spazio di essere benessere, che potremmo chiamare, se ci piace, ma sono naturalmente si accettano proposte, da donna a donna. Sentite la sua voce, la riconoscete. Sempre lontano, ami tutte a modo tuo, ami tutte le donne, e sei bello come un dio. Con noi Nina Zilli, di cui abbiamo sentito il brano sanremese L'uomo che amava le donne, vincitore tra l'altro del premio della critica Mia Martini. Nina, ciao! Buongiorno, ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Nina o Chiara, cosa si nasconde dietro questi due nomi? Cosa hanno in comune? Nina cantante, cosa ha di diverso rispetto a Chiara giovane donna che è cresciuta nella e per la musica? Esatto, beh, fondamentalmente niente. In realtà io ho deciso appunto di prendere il nome Nina in omaggio a Nina Simone, che oltre ad essere stata una grandissima artista, perché insomma una cantante, una pianista jazz che tutti conosciamo, è una grandissima donna, è una donna guerriera che ha lottato per se stessa, ha lottato per le donne, ha lottato per la sua comunità, per gli afroamericani, e quindi ho preso Nina per avere, insomma, sperando di avere almeno un centesimo della sua forza, per il suo spirito, in quanto mi esponevo io da sola con le mie canzoni. Però fondamentalmente Nina e Chiara, cioè, diciamo, io sono sempre io, non mi sono sdoppiata di personalità. Senti Nina, la tua canzone parla di un uomo pericoloso di cui sarebbe meglio non fidarsi, per restare in tema con la puntata di oggi. Ho letto che a ispirarti questo testo è stato il celebre film di Truffaut. Certo, infatti io ho preso anche proprio il titolo, è chiaramente quello, L'uomo che amava le donne. E in realtà è un film che ho sempre molto amato, perché parla comunque di una categoria di uomini che non è non è menzionata, tant'è che non hanno un nome, cioè questi non sono né sciupa femmine né Latin lover. È un uomo che ha una sensibilità tale da far sentire amate tutte le donne che incontra, che è pressoché impossibile, nel senso che è di solito è la donna che si lamenta sempre col partner di sentirsi trascurata, e invece lui aveva questa sensibilità che però purtroppo usava con tutte le donne. Ma sai che di questo profilo di uomo sicuramente si è occupata la dottoressa Schelotto, che coinvolgiamo subito in questa nostra conversazione, Gianna. Certo, è un uomo che fa sentire amate tutte le donne che incontra, ma probabilmente non le ama, perché è un uomo che ama più se stesso che le altre, che usa le donne, come dire, come un riflesso narcisistico di se stesso, e per questo che non riesce a entrare in comunicazione con le donne che ama. Le donne lo amano appassionatamente, ma lui non si ferma con ciascuna di loro, perché ha bisogno sempre di un altro riflesso, di un altro ruscello che mandi la sua immagine. Alberto, tu non sei questo tipo di uomo? No, non credo proprio. Vero, ti dissoci. Senti Nina, tu da quando avevi 15 anni hai fatto proprio le cose sul serio, perché hai seguito la tua passione, hai dimostrato anche grande fiducia in te stessa, e questo lo dimostri, devo dire, anche sul palco. Ho grande pazzia, non lo so. Senti, ma adesso diciamocelo tra noi, in questo spazio di donna a donna ci vuole sempre un po' di fortuna, no? Sì, una serie di coincidenze fortunate, ma ci sono dei momenti in cui la fortuna non c'è o sembra nascondersi, e allora è lì che noi dovremmo ripensare a questa bella frase che ci ha detto Gianna Schelotto sulla fiducia. Come è andata te? Ci sono stati dei momenti in cui hai detto mollo, oppure... Ma ovviamente sì, anzi uno in particolare che ricordo benissimo, perché insomma, prima di questa esperienza discografica io ne ho vissuta un'altra che è iniziata molto felicemente, perché insomma è iniziata con un singolo di Chiara Gli Scuri, che era il mio vecchio gruppo, e con un direttore artistico che amava le cose che scrivevo io, perché già all'epoca comunque insomma scrivevo le canzoni. Poi una volta cambiata, diciamo, la direzione artistica di questa casa discografica ho avuto l'esperienza peggiore della mia vita, ossia la classica, no? Quella in cui è proprio tipica, ogni tanto capita che i discografici ti prendano, ti vogliono ribaltare come un calzino per creare qualcosa che secondo loro ha un senso, ma qualcosa che poi è lontano da me. Ecco, io diciamo sono stata in questo frullatore durante tutta la registrazione del disco, dopodiché ho detto scusate ragazzi, io vado a fare un viaggio perché ho capito che se devo cantare quello che mi piace e non quello imposto, per cui me ne sono andata e chiaramente per un po' non ho più voluto sentire parlare di musica, ma poi l'amore è talmente forte che uno non ce la fa. Gianna, anche in questo caso Nina ha dimostrato di avere autostima, si direbbe anche in un altro modo, però per Radio Non Oso, perché quando si è trovata di fronte ad un discografico che voleva fare di lei qualcosa di diverso, ha detto no, non ci sto. Cioè ti fidi, ma poi ti accorgi che quella persona a cui tu hai dato fiducia alla fine vuole trasformarti. Sì, e lei soprattutto ha rivendicato la fiducia in se stessa e quindi non ha permesso ad altri di manipolarla, perché una cosa è sono le persone che hanno fiducia nei nostri mezzi, una cosa sono quelle che vogliono appropriarsi dei nostri mezzi per farne altro. Senti Nina, tra l'altro c'è un altro personaggio che ha avuto fiducia in te, un certo Ferzan Ospetek, scusate se poco, Nina. Esatto, sì, guarda, io poi li ho incontrati anche ieri, abbiamo fatto la conferenza stampa per il film Mine Vaganti e sono stata contentissima. Beh, innanzitutto perché il film è stupendo, Ferzan ha un occhio insomma molto sensibile, è un bravissimo regista e quindi poi a me piace tanto davvero, per cui per me è stato un onore. Io la prima volta che ho visto il trailer, guarda, mi sono ribaltata dalla sedia perché Scamarcio che canta e balla 50.000 per me è stato un po' troppo. È stato troppo, ecco. Senti Nina, noi adesso, dato che a noi piacciono anche le donne toste, ma che sono anche un po', no, mostrano anche un po' i loro lati più fragili oppure le loro piccole manie, adesso devo cercare di riuscire a scoprire qualche tuo lato debole. Allora, domanda risponde, io mi sono preparata un po' di spunti. Non usciresti mai senza? Senza, non lo so, guarda, io uscirei anche in pantaloncini e canottiera, non sono una che... Per la gioia dei tuoi fan, non puoi rinunciare a? Non posso rinunciare alle pizzette a colazione. Questa l'avevo letto, morbide o più secchette? Come, scusami, non ti ho sentito. Belle morbide o un pochino più secchette? Guarda, croccantine sul bordo e poi morbidine in mezzo. Con proprio il cuore morbido. Esatto. Quando ti guardi allo specchio ti dici? Aiuto, guarda che faccia che hai. Ti senti a disagio quando? Oddio, quando... sono in un paese in cui non parlo assolutamente una parola della lingua. Che tu sei tra l'altro bilingue, perché conosci benissimo l'inglese. Che esatto, si parla un po' ovunque, quindi ti senti a disagio molto poco, in esatto, rari casi. Mi capita tremendo. Senti, e per rimanere nel tema della puntata, la tua fiducia scatta quando cerca un po' di tratteggiarci l'identikit della persona per te affidabile? Una persona per me affidabile, oddio, una persona che c'è sempre, è difficilissimo fidarsi, avere fiducia in qualcuno, quindi sicuramente una persona che amo, ho fiducia cieca in lei, ecco. Grazie a Nina Zilli per essere stata con noi, buona giornata. Grazie a voi, ciao, un bacio grande. Grazie, grazie, buona fortuna. Pronto soccorso. Allora, avete fatto un atto di fiducia, ci avete scritto già numerosi messaggi, ne leggerò alcuni perché da questi partiremo per esplorare la fiducia a 360 gradi, una capacità, una qualità. Che cos'è, dottoressa? Che cos'è Gianna Schelotto? Ti stavo chiamando dottoressa Schelotto, che in realtà è vero, ma insomma è Gianna... un po' esagerato tra noi. Sì, come possiamo definirla? Qualità, dote, capacità? Che cos'è la fiducia? Ma forse più una capacità, nel senso che è proprio un mettere insieme la fiducia di sé, l'autostima, la fiducia negli altri, l'empatia, la capacità di capire l'altro, di cogliere i messaggi che l'altro ci manda, quindi è qualcosa di molto dinamico. Marco ci chiama da Reggio Emilia, vediamo se si fida o non si fida. Marco, buongiorno. Buongiorno a lei, mi sente? Io la sento bene. Ecco. No,

Caterina Capurro, coach professionista. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno. Le ho affidato oggi un compito difficile, perché tutti noi abbiamo dei sogni nel cassetto che aspettiamo, diciamo no, questo in questo momento non me lo posso permettere, adesso ci vuole troppo, è impegnativo. Però prima di realizzare i sogni, indicarci la strada, diamo una definizione di coach. Coach è una sorta di allenatore che guida e accompagna le persone proprio a realizzare i propri obiettivi in ambiti diversi, dallo sportivo e poi oggi soprattutto in ambito personale e professionale. Allora, noi siamo pronti, il cassetto l'abbiamo aperto. Benissimo, allora abbiamo detto che parliamo di sogni, in effetti tutti abbiamo dei sogni ed è bellissimo perché è quello che ci manda avanti, ma per realizzarli è necessario che passino dall'essere dei semplici sogni o desideri ad essere dei veri e propri obiettivi. E come dicevi, è passato, siamo in primavera, siamo a 2 mesi dall'anno nuovo, quindi è veramente il momento giusto, se chi ci ascolta non lo avesse ancora fatto, di pensare cosa vuole realizzare quest'anno. Cogliere l'attimo, questo cogliere è il giorno. L'attimo, focalizzare la mente. E infatti questa focalizzazione rende le persone, ci rende in grado di mettere a fuoco tutte le risorse che ci conducono ai nostri obiettivi. Ed è l'abilità da sviluppare è proprio quella di definire una visione e, aggiungo una cosa importantissima, scriverla. Quindi ora vi dico questo, pensate all'anno che vi aspetta e domandatevi cosa voglio veramente. E sottolineo, veramente vuol dire non quello che non volete, quello che esattamente volete. Come quando dite al vostro navigatore, voglio andare a Via Bianchi. Non è necessario dire non voglio andare a Via Marroni, non voglio andare a Via Rossi. Quindi il punto è, io amo citare a questo proposito Lawrence Peter, che dice, se non sappiamo dove andare, probabilmente arriveremo da un'altra parte. Quindi rispondete a questa domanda e domani vi darò altre chicche. Magnifico, dottoressa Capurro, noi ci sentiamo domani, quindi il compito di oggi, aprite il cassetto, tirate fuori un sogno, guardatelo attentamente, chiedetevi se è questo che volete, che desiderate veramente, scrivetelo e noi ci sentiamo domani. Dottoressa Capurro, buongiorno a lei. Grazie, grazie. Buongiorno a voi che ci avete seguito, appuntamento come sempre a domani dopo il GR delle 11:00.